Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Come sempre l'anticipazione dei temi che tratteremo. Allora, l'Istat oggi diffonde i dati, le previsioni soprattutto per il 2013 e risulterà comunque anche l'anno prossimo un anno in recessione dello 0,5%, il calo del PIL, nulla a che vedere con il meno 2,3% che faremo quest'anno, ma insomma è confermato da un lato il fatto che verso metà anno dovrebbe esserci un po' di ripresa, metà anno prossimo, e che però si arriverà nel 2013 in frenata, e da lì poi il dato complessivo, la stima complessiva di un calo del PIL dello 0,5%. I consumi, pesante il calo quest'anno, meno 3,2%, l'anno prossimo ancora un calo non così pesante, meno 0,7%. Questo però al netto di sorprese e novità. Io sapete che un po' per esperienza in questi anni, quando vedo partire le previsioni con un meno 0,5%, di solito poi vengono sempre riviste al peggio. È successo qualche volta che fossero riviste al meglio, ma diciamo non negli ultimi 4-5 anni, per cui andrei cauto nel ritenere un meno 0,5% come il dato definitivo. Magari verrà corretto in meglio. Detto questo, però, l'indicazione di un 2013 comunque in recessione, anche se leggera, fa il paio con quanto dichiarato da Angela Merkel nel fine settimana, che ha sconvolto molti, anche il ministro Passera oggi ha detto Angela Merkel ci vorranno altri 5 anni per uscire dal tunnel. È il tunnel, diciamo, un tunnel del Gran Sasso, per ricordare la famosa gaffe dello staff dell'allora ministro Gelmini, e comunque un tunnel interminabile. Oggi il ministro Passa ha detto mi sembrano delle stime un po' troppo negative, stime della Merkel sono un po' pessimistiche, bisogna avere fiducia perché ci sono le ragioni per averla. E va bene, parleremo anche di questo nella seconda ora del programma con il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, per capire poi che cosa contribuirà a questa ulteriore stagnazione barra recessione, ma anche quali siano le voci non tantissime positive. Tra l'altro tutte queste stime sono fatte con un prezzo del petrolio a $107 al barile. Ma detto ciò, e quindi escludendo tensioni sul petrolio e quindi escludendo l'ipotesi di uno scontro militare tra Israele e Iran, questo è chiaro che non si può mettere in preventivo, e speriamo di non doverlo mettere mai in preventivo. Detto questo, la borsa oggi meno 1,20%, Parigi meno 1%, Francoforte meno 0,50%, Londra meno 0,50% anch'essa. Partiremo parlando di alcune crisi industriali italiane. Porto Vesme questa mattina all'alba ha chiuso, sono spente le ultime due celle dello stabilimento Alcoa, ormai potremmo dire quasi ex Alcoa, a Porto Vesme. Ed è una sconfitta in primo luogo per gli operai di una delle aree più depresse dell'intero paese, ma è una sconfitta anche per il governo precedente che, nonostante le varie rassicurazioni, nulla è riuscito a fare. È una sconfitta anche per il governo attuale, perché ci sarà poi il prossimo 13 novembre una visita dei ministri per fare il punto sulla situazione industriale dell'isola nel Sulcis. Si aspettano un altro po', la battuta è facile, possono anche non fare il viaggio, tanto la deindustrializzazione della Sardegna sarà completata. Al di là delle battute, il 13 novembre il ministro Corrado Passera, Fabrizio Barca e Claudio De Vincenti andranno appunto prima nel Sulcis e poi a Cagliari. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo della gestione dei comuni italiani, perché oggi scopriamo che il comune di Napoli ha pulito i bilanci gonfiati ed è spuntato un buchetto da 850 milioni di euro, mentre, stando a quanto ricostruito oggi il Sole 24 Ore, nella diatriba tutta politica, per carità, tra Grillo e Renzi, sembrerebbe, conti alla mano, mi raccomando non c'è nessun giudizio politico, Sembrerebbe avere ragione il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, i conti non sembrano presentare particolari criticità. Tra l'altro vi anticipo che Matteo Renzi domani mattina sarà ospite di Radio 24 del nostro Alessandro Milan, e questo per quello che riguarda l'aspetto gestione delle risorse pubbliche. 349-238-6666 per i vostri sms. Tra i titoli segnaliamo bene Fiat Industrial più 1,10, Tods più 0,80, sono gli unici due. Male oggi le banche, lo spread è tornato a essere alto, altino. Meno 3,40 la Popolare Emilia Romagna, meno 2,90 la Popolare di Milano, meno 2,60 il Banco Popolare e meno 1,90 UbiBanca. Male anche A2A, meno 2,80 come Parmalat, Generali meno 2,20, Exor meno 2%, Mediaset meno 1,80, Fiat meno 1,70%, Euro relativamente debole a 1,2789. Le notizie in breve. Per fortuna dal petrolio non arrivano tensioni, a $84,99 il barile. Alcuni di voi mi chiedono sulla legge di stabilità, si stanno cercando nuove risorse per il taglio del cuneo fiscale. Ne abbiamo raccontato la settimana scorsa, il governo su indicazione dei partiti ha cambiato radicalmente la manovra, per cui no retroattività, no riduzione IRPEF, l'IVA solo quella dal 21 al 22. Ma si cercano appunto i soldi per la riduzione del cuneo fiscale, di una piccola parte del cuneo fiscale. Torniamo alle notizie invece dall'estero. In Grecia si preannuncia una nuova settimana di scioperi e proteste contro il pacchetto di tagli al bilancio per il biennio 2013-2014. Un pacchetto di tagli che è quello che ha permesso alla Grecia di chiudere l'accordo con la Troica, e cioè di ottenere l'ultima tranche di aiuti, 31 miliardi e mezzo. Scioperanno giornalisti, medici, infermieri, giudici, avvocati, gli insegnanti, tutto il mondo dei trasporti, e tra l'altro le manifestazioni più grosse si dovrebbero tenere il 7 novembre, mercoledì, quando il Parlamento voterà il pacchetto delle misure di austerità. La Francia, l'economia francese, grazie a una buona tenuta dei consumi interni e anche, devo dire, a un welfare invidiabile, nel 2013 farà un più 0,4%, quindi per pochissimo, sarà in stagnazione ma non in recessione. Però il Fondo Monetario Internazionale raccomanda alla Francia di ammodernare il suo mercato del lavoro, perché dice che nel paese la mancanza di concorrenza è la maggiore sfida, e poi avvisa che le banche francesi restano a rischio per le turbolenze di mercato nell'area euro. Ma se per la Francia sono ammonimenti, avvisi, preoccupazioni, purtroppo per la Spagna invece sono certezze. Sono saliti a 194 miliardi di euro i crediti incagliati, cioè delle banche, cioè quei crediti concessi che difficilmente le banche rivedranno, di dubbia esigibilità. Stiamo parlando del 34% di tutti i crediti bancari spagnoli. In Italia la cifra, pur alta, non arriva al 10%. Vuol dire che su 100 milioni dati, 34 milioni difficilmente le banche li rivedranno indietro. E ancora in Spagna un nuovo record di disoccupati a 4,8 milioni nel mese di ottobre, 4 milioni 800 mila persone, ci sono 128 mila persone in più, e praticamente il 2,7% in più rispetto al mese di settembre. Nel frattempo il BTP italiano è tornato a 360 punti per la prima volta dallo scorso 11 ottobre, e quindi con un rialzo del BTP a 10 anni rende il 5,02%. E il numero uno, il segretario generale dell'Ocse, Ángel Gurría, ha detto: attenzione, è importante che lo spread italiano cali di 200 punti ed è abbastanza importante che da 520-530 sia sceso a 330-320, però l'Italia tenga pronto il bazooka, va caricato e puntato e se serve attivato. Tenga pronto il bazooka per mantenere un'allerta credibile sui mercati. Ora io, per carità, è un'intervista all'ANSA da Città del Messico, ma vorrei capire meglio che cosa vuol dire l'Italia tenga pronto il bazooka, per spararlo verso chi? Cioè per spararcelo addosso, no? Girarlo verso di noi o girarlo verso che cosa? Sono queste... così, dichiarazioni molto aleatorie. Qui ci abitano ogni tanto il Fondo Monetario, l'OCSE. Tenere pronto bazooka è una dichiarazione quasi di guerra, no? Pronti che potrebbe capitare l'impossibile. E noi in questi casi, al posto del bazooka, mettete un fiore nei vostri cannoni, mettete un gufo nei vostri bazooka. Un gufo col bazooka per il segretario generale dell'OCSE Angel Gurria, affinché non ci chiarirà che cosa vuol dire questa frase. Nel frattempo, dicevo dell'Istat, la disoccupazione in Italia è al 10,6%, si chiuderà in questo modo secondo l'Istat il 2012, salirà ulteriormente l'anno prossimo all'11,5%, anno in cui il PIL calerà meno, ma è chiaro che c'è un effetto di trascinamento. Di solito prima cala l'economia, poi purtroppo l'effetto si registra sull'occupazione, così come quando riparte l'economia non riparte subito l'occupazione, ci vuole un tempo più lungo. E comunque lo stesso Istat dice: attenzione, dal rallentamento del commercio mondiale e poi dal possibile riacutizzarsi delle tensioni sui mercati finanziari potrebbero arrivare rischi di un ulteriore ribasso di queste stime. Fiat, allora, FIM, WILM, FISMIC, UGL e l'associazione Quadri hanno chiesto alla Fiat il ritiro della procedura di mobilità aperta per i 19 lavoratori di Pomigliano e la convocazione di un incontro urgente tra azienda e sindacati. Lo hanno fatto all'Unione Industriale di Torino in occasione della riunione sui contratti del gruppo. Domani, tra l'altro, alle 15, i manager di Fabbrica Italia Pomigliano, i manager incontreranno i rappresentanti territoriali di FIM, WILM, FISMIC e UGL. Molti di voi vogliono sapere cosa ne pensa il sottoscritto della vicenda Fiat di Pomigliano. Ne abbiamo parlato già giovedì scorso con Tito Boeri, ma insomma mi sembra che anche alla luce degli sviluppi, gli interventi governativi, i commenti caustici di alcuni altri industriali, della Valle, De Benedetti, diciamola tutta, è stata quantomeno un po' grossier, un po' uno scivolone. Non che un gruppo non possa fare quello che vuole, ma farlo passare come una rappresaglia non mi sembra che dal punto di vista dell'immagine, della comunicazione, oltre che della vita di queste 19 persone, che sia stato una grande mossa, tant'è che poi ha dovuto correggersi la Fiat. Ecco, magari cercare anche di utilizzare dei meccanismi che poi non diventino un boomerang. Che sia stato un boomerang, a mio avviso, è innegabile. Scrive un ascoltatore: ma porca ma c'è qualcosa di positivo? Beh, qualcosa di positivo c'è, nel senso che andando poi dentro le cifre si scopre, per esempio, sulle prospettive dell'economia italiana, che l'export andrà ancora bene, che c'è qualche elemento di positività. Dopodiché, sa, non è che le notizie positive possiamo inventarcele, questo è quello che passa al convento, questo è quello che noi facciamo di lavoro, raccontiamo quello che succede nella giornata dal punto di vista dell'economia e della finanza. Dopodiché, quando Angela Merkel dice ci vorranno 5 anni, sega le gambe, mi manda il gufo in depressione e sega le gambe a qualunque tipo di prospettiva positiva. Allora, sulla vicenda dello SLA adesso ci arriviamo. E però il ministro Passer oggi, al di là delle stime della Merkel, ha commentato anche la necessità di una grande intesa per l'accordo sulla produttività, che ancora non è arrivato. E a chi gli ha chiesto: ma lei ha incontrato i cinesi per la vicenda del ponte sullo stretto? I rappresentanti della cinese CCCC, che sarebbe interessata a realizzare il ponte sullo stretto, No, non li ho incontrati, ci siamo dati altri 2 anni per vedere se ci può essere capitale privato interessato. Però, sempre in materia di ponte sullo stretto, adesso non è tema di questa puntata, ma io mi chiedo come sia possibile, lo dico al governo, al di là del fatto che non ho capito il perché di tutto questo braccio di ferro tra il ministro Barca e il ministro Passera su un ponte del tutto inutile, che fu un delirio onirico, l'abbiamo sempre definito così, dell'allora governo Berlusconi, con i problemi che ha il paese, immaginare anche una spesa di 8 miliardi e 7, che poi non sarebbero mai stati 8 miliardi e 7, per il ponte sullo stretto, senza pensare al raddoppio della linea ferroviaria e appunto agli snodi e all'effetto imbuto. Oh, cioè, era una follia. Detto questo, io non capisco perché, e ho letto tutti gli inghippi legali e anche magari cercheremo nei prossimi giorni l'amministratore legato e presidente della società ponte sullo stretto di Messina, Ciucci, per capire esattamente come stiano le cose, però il governo nella prima versione della legge di stabilità aveva trovato i soldi, 300 milioni di euro per pagare le penali sullo stop al progetto. Adesso poi invece ha sospeso tutto e si è dato 2 anni di tempo. Vabbè. Però non è riuscito a trovare i soldi per i malati di sclerosi laterale amiotrofica, e che sono, guarda un po', 330 milioni di euro. Ma io dico, ma in che cavolo di paese si può che cavolo di paese è un paese in cui il governo nella legge di stabilità mette da parte a cantone i soldi per pagare le spese legali per un ponte sullo stretto, che è una cosa che ricorda Tutankhamen più che un paese normale, e non ha i 330 milioni per l'assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica, che tra l'altro sono i più colpiti dalla rimodulazione prevista dal governo su tutte i fondi per l'assistenza alle persone gravemente non autosufficienti. Oggi, con una dichiarazione del ministro Balduzzi e Fornero, l'impegno personale ribadito a Cagliari durante la visita a Salvatore Usale al 31 ottobre scorso da ministri Fornero e Balduzzi di ripartire dalla norma che prevede prioritariamente le destinazioni di risorse alle non autosufficienze non riguarda solo i malati di SLA, ma si estende a tutte le gravi non autosufficienze, comprese quelle rappresentate dai malati che fanno riferimento all'associazione Risvegli Onlus. Tutto bene, tirate fuori i soldi e fateci capire perché sul ponte sullo stretto non si riesce a chiudere, fra 2 anni rischiamo di dover riaprire il capitolo delle penali. Detto ciò, l'invito è sempre il solito. Quinto potere, Sidney Lumet. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. La crisi, questa è la notizia molto seria, così l'ascoltatore che dice, non c'è una notizia positiva, si becca pure questa, mi dispiace, in realtà il vero problema è quanti pasti vengono distribuiti alle mense dei poveri. Secondo la Coldiretti quest'anno saranno 9% in più il numero di persone costrette a ricevere cibo, pasti gratuiti in mensa o nelle proprie case, praticamente sono 3 milioni e 700 mila. Il massimo dell'ultimo triennio, secondo la relazione sul piano di distribuzione degli alimenti agli indigenti del 2012. L'aumento praticamente dal 2010, quando erano 2 milioni e 700 mila, si è passati a 3 milioni e 300 mila nel 2011 e poi 3 milioni e 700 mila nel 2012. Ora, io so già che mi arriverà un messaggio che dice: ma dov'è questa crisi? Perché le autostrade erano piene per il ponte. Tocca ripetere ogni volta prima che lo scriviate: il fatto che aumenti in maniera considerevole il numero di indigenti non vuol dire che il paese diventi una specie di Biafra. È chiaro che c'è sempre una parte della popolazione che va via a fine settimana, che si permette il ponte, anzi abbiamo visto aumentare anche la forbice tra i più abbienti e meno abbienti in questi anni, ma non basta vedere un ristorante pieno o un'autostrada intasata per il ponte per dire che la crisi non c'è. Per favore, o il lavaggio del cervello è arrivato fino a quel livello di profondità. E mentre il governo assicura che troverà le risorse, però poi su sto ponte, perché hanno sospeso tutto per 2 anni? Non so. Sarà interessante, cerchiamo Ciucci. Dicevo, perché vorrei capire anche che tipo di contratti sono stati fatti nella massima trasparenza, però insomma un governo ha anche il diritto di tutelarsi, visto che gestisce i soldi pubblici, no? E non di regalare sulla base di contratti capestro soldi ai privati, no? Chiedo, insomma, nessun privato si comporterebbe così, in maniera così, diciamo, masochista, bondage. E molti di voi mi fanno notare: dov'è l'accordo con la Svizzera? Boh, la Germania l'ha fatto. Le stime sull'Italia è che se noi facessimo quello che ha fatto la Germania riceveremmo dai 15 ai 18 miliardi di euro. Il governo si è fermato perché l'Europa ha detto: voglio fare io l'accordo. Boh, fate sto accordo perché noi 18 miliardi ci servono ai malati di SLA, a tutti i non autosufficienti, a coloro i quali si vedranno aumentare l'IVA, cioè tutti noi, a quelli che non si vedranno ridurre il cuneo fiscale, cioè molti di noi. E facciamo sto accordo con la Svizzera, ci sono 170 miliardi stimati, portati nel 99% dei casi illegalmente in Svizzera da persone che li hanno evasi, fate l'accordo con la Svizzera e basta. Nel frattempo, festeggiamo la chiusura dell'Alcoa di Porto Vesme, perché questa mattina, con 24 ore di anticipo per essere zelanti, si sono spente anche le ultime 2 celle elettrolitiche. E praticamente è finita la storia dell'alluminio in Sardegna, una storia che era iniziata 40 anni fa, quando le partecipazioni statali fondarono una fabbrica che poi nel 96 fu acquisita dalla multinazionale americana Alcoa. E poi negli ultimi anni le vicende dell'azienda che ha prodotto l'alluminio, che produceva l'alluminio a Porto Vesme, hanno dovuto fare i conti con i costi energetici, la crisi globale. Nonostante lì si pagasse l'energia la metà rispetto al resto d'Italia, con un valore complessivo di sussidi di 3 miliardi di euro. Nulla di fatto, non sono servite le proteste, le manifestazioni degli operai, anche quelle estreme sul serbatoio pensile dello stabilimento a 60 metri d'altezza. Nulla di fatto anche con le multinazionali, la Svizzera, Glencore, i fondi Clash e Aurelios. Paolo Bricco, che ha seguito per intere giornate e settimane in Sardegna, prima la vicenda di Iglesias, dei minatori, e poi quella di Porto Vesme, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Paolo Bricco, chiaramente del Sole 24 Ore. Allora, caro Paolo, insomma, non è servito a nulla. Io non voglio trovare delle colpe per forza nella politica o nel governo. Però diciamo che il governo precedente, il governo di adesso, nessuno è riuscito a trovare una possibilità di mantenere in piedi uno stabilimento come quello dell'Alcoa, né di attrarre soggetti esterni, perché sembrava a un certo punto che la Glencore o i fondi Clash e Aurelius potessero, soprattutto Glencore, avere un certo interesse. Che cos'è che non ha funzionato? Sì, soprattutto Glencore è andata molto vicina a fare una vera offerta di acquisto, questo non è successo e purtroppo si è proceduto a un'autentica scissione tra il piano del business e il piano della pax sociale, diciamo, nel senso che oggi come oggi, ricordiamolo ai nostri radioascoltatori, abbiamo una sorta di colloquio continuativo, ma per ora incagliato perché non si sono ancora detti addio, tra Clash, il fondo di private equity che i detrattori definiscono speculativo perché è abituato a comprare aziende rottamate o rottamande e a farsi dare un po' di soldi pubblici e poi a rilanciarli inserendoli in un contesto globale molto molto finanziarizzato, ecco, anche se le attività sono anche sul ramo industriale, e appunto Alcoa, nel senso che il governo giustamente continua a dire no, ma guardate che i colloqui sono ancora in corso, a quanto risulta a noi del Sole 24 Ore si sono visti ancora un paio di settimane fa i management delle due società, ma per ora le posizioni negoziali sono molto molto distanti e quindi nessuno ha più voglia di propalare ottimismo in una vicenda che adesso rischia di diventare davvero un problema sociale enorme, dato che si tratta di una delle aree del paese più povere. Tu, Sebastiano, hai citato prima la prospettiva di aumenti considerevoli dei saggi di disoccupazione in Italia. Ecco, ricordiamo che quel 10% nella provincia di Carbone Iglesias rischia l'anno prossimo di salire al 20-25% e in alcuni segmenti, in particolare per i giovani, andare addirittura al 50%. Veramente uno scenario estremamente complicato, una vera polveriera sociale. Ecco, il fallimento è chiaro, non sto dando la colpa a questo governo necessariamente, che è arrivato a una parte finale. Devo dire che Glencore alla fine ha mollato per cosa? Perché eravamo quasi giunti, no? Sì, ha mollato sostanzialmente perché comunque, per quanto concerne l'acquisizione di questo stabilimento, c'è una richiesta molto forte da parte di chi subentra a che Alcoa sostenga una quota considerevole dei costi da sostenere per rimettere, come dire, ammodernare un impianto estremamente vecchio. E ricordiamolo che questo stabilimento, questo plant, perde tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno ed è una cifra straordinariamente elevata per chiunque in questo momento di crisi internazionale voglia fare un buyout estremamente complesso. Sì, e questo per quello che riguarda Glencore. C'è poi l'avviso, tu ricordavi che questo, come sempre purtroppo piove sul bagnato, va a inserirsi la chiusura di uno stabilimento, queste 600 persone in un 500 a Porto Vesme più 300 nell'indotto, sì. E poi ce ne sono altri 300 a Fusina, a Venezia. Dicevo, va a collocarsi in un'area che è particolarmente depressa, sì, dal punto di vista occupazionale. Il prossimo 13 novembre arriverà la delegazione ministeriale. Adesso non vorrei essere troppo critico oggi col governo, ma non è che arriva con i buoi scappati, no? Beh, sicuramente arriva a portare, come dire, una specie di messaggio pacificante e rasserenante, ma dopo che il grosso del deal si è evaporato, deal, si è vanificato, ecco, dell'ipotesi di compravendita, ecco. Quindi è evidentemente un grosso problema. Evidentemente è un grande problema per il sistema paese dal punto di vista del significato, nel senso che mentre obiettivamente il problema dell'Ilva Taranto è un problema più strategico, cogente, certo, per il sistema industriale, mentre invece Porto Vesme è una realtà più piccola su un segmento come quello dell'alluminio, che si trova in grandi quantità a basso prezzo su tutti i mercati globali, e quindi è una situazione oggettivamente diversa. È comunque una situazione simbolicamente molto pesante per un governo che ha un ministro come Corrado Passera, che è un ministro sia finanziario per il passato in Intesa, ma anche profondamente industrialista per i discorsi che spesso ha fatto sul manifatturiero, e per un governo che ha nel ministro Barca, ricordiamolo, ex ufficio studi della Banca d'Italia e anche uno, diciamo, dei teorici italiani delle economie territoriali e dell'importanza del manifatturiero, e quindi diventa un problema politico molto molto rilevante anche per l'esecutivo. Per questa ragione sarà interessante sentire che cosa martedì prossimo verranno a dire a Cagliari, verranno a dire a Carbone Iglesias. Il rischio è che sia un discorso appunto parapolitico o prepolitico o postpolitico, poca sostanza in sostanza. O subpolitico, mancava solo quello. Perché, lo dico, no, io sorrido, ma insomma, quello che il governo intende realizzare il 13 novembre, fanno sapere dal Ministero dello Sviluppo Economico, è un confronto a tutto campo sui problemi aperti nel Sulcis. Complimenti, staranno lì dei mesi. Compresi nello specifico quelli della filiera dell'alluminio, quindi di Eurolumina e Alcoa. E la visita di Corrado Passera, Fabrizio Barca e il sottosegretario Claudio De Vincenti farà tappa innanzitutto nella zona del Sulcis Iglesiente, poi nel pomeriggio si sposterà a Cagliari, augurandoci che trovino bel tempo e anche raccogliendo l'invito dell'ascoltatore che dice: ma insomma, solo cose tristi. Dite: ha ragione lei, bisogna stare più allegri. È sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso c'è la borsa e poi ci occupiamo della diatriba tra Grillo e Renzi sui temi economici, la gestione del Comune di Firenze, ma anche quello che sta emergendo sul Comune di Napoli, e dove appunto i bilanci, la pulizia dei bilanci gonfiati, devo dire, da parte del sindaco De Magistris, ha fatto scoprire un buchetto da 850 milioni di euro. C'è chi scrive, però, ogni tanto arriva, ma insomma lei adesso è smemorato, faccio una cura a base di fosforo perché ha sempre difeso il governo e adesso lo critica. Ma possiamo mettere un punto sul fatto che, in base a quello che fa qualunque governo, Berlusconi, Prodi, adesso Monti, noi esprimiamo così delle valutazioni, delle osservazioni, non è che abbiamo portato il cervello all'ammasso e Monti ha sempre ragione, Berlusconi ha sempre ragione, o ha sempre torto Monti, ha sempre torto Berlusconi, di volta in volta. Secondo me quello che è successo con la vicenda Ponte sullo Stretto e in parallelo l'assenza di fondi per le persone non autosufficienti a partire dalla SLA è una cosa gravissima ed è uno scivolone. Anche la vicenda Alcoa, al di là delle dichiarazioni, secondo me il governo, sulla vicenda Svizzera, uguale. Poi su altre cose invece si è mosso bene il governo, sui conti pubblici, sullo spread. Insomma, la vita è articolata, basta con sto bianco e nero, Guelfi, Ghibellini. È 20 anni che andiamo avanti così e guarda dove siamo arrivati. Dai, mercati. Mercati oggi negativi soprattutto a Milano, ma anche Parigi, -1,30% Parigi, -1,40% Milano, -0,50% Francoforte, -0,50% anche Londra, invariata l'America. Tra l'altro, a chi ci chiede, domani Radio 24 da mezzanotte di martedì sera inizierà una lunghissima diretta per le elezioni americane. Noi a Focus Economia domani faremo il punto comunque sulle proposte finali dei due candidati. Chiuso la parentesi americana, la borsa come sempre con Radio Cori Sole 24 Ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Spread? Sì, allora diciamo che Piazza Affari è stata penalizzata soprattutto dall'andamento delle banche, che hanno chiuso in netto calo, anche in Europa, dove hanno segnato una flessione superiore all'1%, lo spread BTP Punta è tornato a salire intorno a quota 357 punti base e questo balzo si è visto appunto nelle quotazioni delle banche, con la BPR in calo del 3,5%, Banco Popolare -3,12% e BPM -2,75%. E questo chiaramente si spiega perché aumentando lo spread le banche sono piene di titoli di Stato e si fa un ragionamento sui costi superiori per loro. Oggi devo dire che il lusso tiene, meno male che il lusso c'è, Tod's +0,48%, Ferragamo invariata e arrivano buone notizie soprattutto dalla Cina, Luxottica perde un punto percentuale dalla Cina, no? Sì, infatti Tod's sta recuperando terreno nelle ultime sedute grazie soprattutto al dato sull'economia cinese pubblicato la scorsa settimana. Ricordiamo che la produzione manifatturiera in Cina è ripartita al rialzo a ottobre dopo 2 mesi di flessione, tornando quindi sopra quota 50,2 punti. Ricordiamo che le società del lusso fanno buona parte del fatturato nei paesi asiatici e quindi una ripresa dell'economia cinese favorisce anche le nostre società del lusso. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e Livia, dicevo di Fiat, soprattutto Fiat Auto, chiaramente Fiat Industrial, camion e trattori va bene, +1%, è il miglior titolo, Fiat Auto -1,5% e XOR -2,12%, la finanziaria di controllo del gruppo Fiat. Sì, allora ricordiamo che venerdì scorso a mercati chiusi sono stati comunicati i dati sulle vendite di auto in Italia, che per Fiat hanno mostrato un calo del 10%, questa volta Fiat ha fatto meglio del mercato, che invece ha registrato una flessione del 12%, ma penalizzare il titolo del lingotto sono in particolare sempre le sorprese emerse dal nuovo piano presentato la scorsa settimana. piano piano che non continua a non convincere gli analisti e gli esperti di Piazza Affari. Quello che non convince soprattutto è la priorità o la necessità di sistemare prima l'Europa e investire su nuovi prodotti invece di concentrarsi su come raggiungere l'intero controllo della Chrysler, che è una delle opportunità di investimento che secondo gli esperti è più interessanti per il lingotto. Sì, la battuta è facile, il piano non convince anche i 19 dipendenti di Pomigliano, mi sa. Però, Livia, però è chiaro che in questo caso tu ragionavi sugli analisti. Mediaset e Camfin. Sì, allora Mediaset questa mattina era positiva, poi ha virato il negativo e ha perso l'1,8%, secondo quanto riportato nel weekend al Sole 24 Ore, la francese Canal Plus sarebbe interessata a Mediaset Premium, ci sarebbero già stati dei contatti nelle scorse settimane. Il nome di Canal Plus si aggiunge quindi a quello di Al Jazeera e a quello del gruppo tedesco RTL. Per gli operatori la vendita di Mediaset Premium, che nel 2011 ha mostrato 70 milioni di perdite, sarebbe positivo per il gruppo. Per quanto riguarda Camfin ha chiuso alto del 2,8% circa. L'attesa qui per il riassetto all'interno del gruppo che fa capo a Marco Tronchetti Provera. Secondo le indiscrezioni, infatti, per preservare il controllo di Pirelli, Tronchetti avrebbe allo studio l'entrata di nuovi azionisti nelle società a monte della catena di controllo di Pirelli. Tra i possibili nuovi soci si fanno i nomi del fondo Cressidra e del fondo governativo del Qatar, più altri fondi esteri non ancora precisati. E visto che l'ascoltatore chiedeva qualche buona notizia, Premuda più 23%, Sintesi più 20% e soprattutto Rete Elite più 8,65%, sono questi tre migliori titoli della giornata. Su Rete Elite c'è notizia. Sì, c'è la notizia che il governo libico ha confermato l'interesse a rimanere nell'azienda di cui detiene il 14,8% tramite la società di Poste e Telecomunicazioni. La società appunto libica si è alleata recentemente con un gruppo di piccoli soci e ha sfiduciato il vecchio CDA, ne ha nominato un altro. Ricordiamo che Rete Elite ha in pancia 7.300 km di fibra ottica in Italia che la Libia vuole utilizzare per collegare l'Europa all'Africa, ed è per questo che appunto il governo ha confermato l'interesse nella società italiana. Grazie a Livia Zancanelli. Peggiore invece di Mail Group, meno 9,50, Mittel meno 5,30%. Volete sapere se il mercato si è mosso sull'ipotesi di un'operazione di arrocco tra Intesa San Paolo e Unicredit? No, non mi pare proprio, nel senso che i titoli sono molto molto fermi, seguono quello che è l'andamento del mercato. Intesa San Paolo ha perso il 2,13%, Unicredit ve lo darei volentieri se lo trovassi, adesso riuscirò a recuperare anche il titolo, ma l'ipotesi di fusione tra le due non mi sembra aver mosso oggi il mercato. E adesso passiamo invece al tema, in attesa che mi appaia Unicredit, al tema che avevo annunciato, ossia torniamo sui conti dei comuni questa volta e anche sulle accuse che vanno verificate. Lo dico perché ci aspetta una campagna elettorale pesante, nuova anche come mezzi, e quindi lasciare poi che galleggino accuse senza verificare i conti è sbagliato, per noi è anche un errore deontologico. Il Sole 24 Ore oggi se ne è occupato e è andato a vedere che cosa è successo al comune di Napoli e come sono gestiti i conti del comune di Firenze. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, che più, perché parliamo anche del comune di Napoli oggi. Allora, quello che ha scoperto Sole 24 Ore è che il comune guidato dal sindaco Luigi De Magistris ha pulito i bilanci gonfiati e ha scoperto un buco da 850 milioni. Sul fronte opposto invece, sempre sulle 24 ore, è andato a guardare come vengono gestiti i conti del Comune di Firenze, messi sotto accusa da Beppe Grillo. L'autore, coordinatore di tutto, è il nostro collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Fabio, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Ne parleremo anche dopo il GR, però diamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Allora, il cerchio, De Magistris si ritrova con un buco da 850 milioni in più che porta il debito complessivo del Comune a 1,6 miliardi? Sì. Questo è il disavanzo da 850 sì. milioni, il debito è sempre stato molto alto, ma questa è un'operazione verità sollecitata dalla Corte dei Conti più volte, dal Collegio dei Revisori. Io me lo sono stampato, consiglio agli ascoltatori una lettura, lo trovate sul sito del Comune di Napoli. Sono continui richiami alle criticità. Cioè, il Collegio dei Revisori dei Conti a un certo punto dice: oramai è assolutamente indifferibile adottare provvedimenti amministrativi e gestionali idonei a superare tale situazione di criticità finanziaria e deficitaria in maniera completa e definitiva. Ma questo è solo uno degli allarmi. Ma perché? Perché semplicemente da anni, e quindi a partire dalle gestioni passate, parliamo di decenni, cosa succedeva? Che i sindaci succedutesi al Comune di Napoli scrivevano a bilancio come entrate i cosiddetti residui attivi, cioè cos'erano? Erano entrate che cumulavano negli anni, tassa rifiuti, multe auto, e che pur non essendo riscosse venivano scritte a bilancio per l'anno successivo. E 7 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulla gestione del Comune di Napoli da una parte, di Firenze dall'altra. Due storie diverse, diversissime, però non per far contento, ma un ascoltatore chiedeva all'inizio del programma: ma qualche buona notizia c'è? Beh, c'è, ve l'ha appena anticipata anche il nostro GR, ma vale la pena ricordarla di nuovo. Oggi da Città del Messico, a margine dei lavori del G20, il ministro dell'economia Vittorio Grilli ha detto: volevo rassicurare, non c'è né una dimenticanza né un'assenza di risorse per i malati di SLA, ma non solo, perché poi il ministro Fornero oggi, il ministro Fornero e Balduzzi hanno detto che sarà estesa a tutti i gravi portatori di handicap e non solo ai malati di SLA e quindi di sclerosi laterale amiotrofica. L'aumento sia Fornero che Balduzzi. Comunque Grilli ha fatto sapere: non c'è nessuna dimenticanza né un'assenza di risorse, le risorse potranno arrivare dal fondo di 900 milioni già previsti dal DDL di stabilità. Vabbè, mettiamola così, non l'avevate indicato in maniera chiara, perché non è che abbiamo preso un abbaglio tutti quanti, le associazioni che difendono i malati di SLA, le associazioni che difendono i portatori di handicap, i giornalisti, non l'avevate precisato bene. Meglio così, le risorse ci sono, quindi potranno essere attinte dai 900 milioni del fondo di stabilità, ed è una buona notizia. Vai. Ogni tanto invece non è una buona notizia quella che ci stava raccontando Fabio Pavesi, e cioè De Magistris, il sindaco di Napoli, facendo pulizia sui conti, si è accorto che al di là del debito da 1,6 miliardi c'è un deficit di 850 milioni di euro. Come si è creato questo deficit? Si è creato per un artificio contabile. Diciamo che i bilanci per molti anni del Comune di Napoli erano del tutto fittizi, perché Iervolino prima, ma anche gli altri sindaci prima di lei, cosa facevano? A parità di spese indicavano come entrate multe non riscosse da anni, tassa rifiuti non pagata e non riscossa da anni, e continuavano ogni anno, non veniva riscossa quell'anno, la scrivano come entrata l'anno successivo. La riscuoterò l'anno prossimo. Esatto. Che però è un po' come fanno alcune banche, non magari italiane, quando hanno crediti difficilmente esigibili, che finché non vengono obbligate dalla banca centrale a dire: oh, Ciccio, o sto credito, li riavrai sti soldi oppure no? Perché se non li riavrai è inutile che continui a mettermi nella voce degli attivi. Certo, però questo falsifica di fatto la realtà, eh sì. E quindi De Magistris ha solo scoperchiato il vaso di Pandora, in una situazione già critica, perché Napoli è in difficoltà da decenni. E a maggio le agenzie di rating se ne erano accorte su segnalazione del ragioniere generale, che aveva detto: guardate che abbiamo 403 milioni di crediti inesigibili. Quindi ha già lanciato un primo allarme, dopo che, ripeto, sono anni che la Corte dei Conti su questo tema insiste. E Napoli è solo la spia, perché quello che è accaduto l'estate scorsa in Sicilia, la famosa crisi di liquidità di Raffaele Lombardo, era motivata anche quella dalla cancellazione di crediti inesigibili. Cioè, il giochetto è sempre il solito: tu sai benissimo, o meglio, temi fortemente, che tanto quei soldi non ti verranno dati, perché la tassa sui rifiuti magari non riuscirai a riscuoterla, perché le multe non riuscirai a riscuoterle, perché ci sono aziende che sono fallite e non ti pagheranno. Però continui a dire che ti arriveranno quei soldi. Esattamente, è un po' come spostare in avanti nel tempo il proprio fallimento, insomma, e posticiparlo. E quindi operazione aspettando verità, che arrivi un'altra giunta magari. Esattamente, succede questo nei comuni. Ripeto, non solo nei comuni. Ma non è, il caso di Napoli è solo il più eclatante, ripeto, la Sicilia l'estate scorsa ha avuto lo stesso problema, il comune di Alessandria, per tornare al nord, certo, e quindi non essere, come dire, antimeridionalisti, è in dissesto finanziario anche per quel motivo lì, cioè teneva a bilancio crediti del 2001-2002, cioè di 10-12 anni, certo, fa, gli hanno imposto di cancellarli, buco di bilancio. Allora, visto che spesso ci scrivete, ci dite: ma che cosa bisogna fare? Bisogna iniziare a utilizzare la memoria. Allora, i cittadini di Alessandria, della Sicilia, mi sembra che abbiano preso atto che di non essere così contenti della gestione precedente. Interessante che non ha votato praticamente nessuno nelle carceri in Sicilia. Comunque questo è un altro, un inciso, solo 43. Ma dicevo, tenete a mente di chi era la giunta, che poi, perché sennò se si passa con questo memoria breve, è chiaro che si dà la responsabilità alla giunta nuova, che sia di centrodestra o di centrosinistra non me ne frega nulla, quando in realtà il giochetto contabile, il trucco contabile l'hanno fatto le giunte precedenti. Uno deve annotarsi chi c'era negli anni prima e dire se ci tiene ai soldi del suo comune, visto che tanto poi dovrà ridarli sotto forma di addizionale IRPEF, beh, non li voterò più perché non hanno amministrato la cosa pubblica. Così si fa nei paesi, diciamo, civili, non l'assalto ai forni e ai municipi per poi dimenticare tutto quando passa la nottata. Firenze, l'accusa di Beppe Grillo invece era molto specifica, parte di questa campagna elettorale. Grillo aveva detto: il comune di Firenze sta sprofondando sotto i debiti. Tu sei andato a guardare i conti del comune di Firenze. Beh, ci ha sorpreso, perché era ieri sulle agenzie, appunto, conoscendo un po' i bilanci dei comuni, Firenze non appariva ai nostri occhi una città in difficoltà, e quindi siamo andati a verificare, che è il nostro lavoro, se le affermazioni di Grillo avevano, come dire, un fondamento oggettivo. Ebbene, sembra un po' una sparata, perché di fatto Firenze da questo punto di vista è una buona situazione di equilibrio. Il debito è a 750 milioni, è vero che è aumentato i 50 milioni, ma fronteggia un patrimonio di 1,7 miliardi e un patrimonio immobiliare di circa 2 miliardi. In più, in cassa, Renzi si trova a fine 2011 con 140 milioni di cassa liquida. Quindi parlare di sommerso da debito, francamente, eccessivo. Però non è tutto luce nella città di Firenze. Ad esempio, Renzi paga molto gli interessi sul debito, e questo un sindaco dovrebbe evitare di farlo. Sui quei 550 milioni di debito finanziario, lui paga tassi interessi al 4,9%. Noi siamo abituati, se andiamo a stipulare un mutuo oggi, a pagare molto meno, non si capisce perché non rinegoziano. Non possono farlo perché hanno i derivati, anche al comune di Firenze, su cui il comune perde circa 10 milioni solo nel 2011. Sono derivati da non coprire, ma non coprono nulla, e anzi sono un esborso per il comune. Quindi qui Renzi un po' d'attenzione dovrebbe farla. E poi tutto sommato viene fuori che la città è ben amministrata, ma pesa molto la macchina comunale, cioè ad esempio tenere in piedi la macchina del comune con 5.000 dipendenti costa da sola 190 milioni di euro, il 40% tutta la spesa corrente. È alto rispetto ad altri comuni. Poi Renzi ha frenato sugli investimenti, cioè fa meno spese per investimenti futuri. E qui l'altra questione per cui possiamo dire che Firenze, tutto sommato, guardando i comuni italiani, è un comune su cui poter stare tranquilli, è che in realtà merito sarà anche di Renzi, ma anche dei cittadini. Mm-mm. Perché il peso tributario, lo diceva già nel 2008 uno studio del Politecnico di Milano sui conti, diceva che l'imposizione fiscale del comune è superiore alla media nazionale, cioè Firenze paga ogni abitante 520 euro contro i 440 della media nazionale. Allora, quindi sono i fiorentini che pagano molte tasse, infatti, quindi tengono il bilancio florido. Questo devo dire che quando i bilanci sono floridi è spesso anche merito dei cittadini, sì, oltre che degli amministratori. Sì, sì. Però, per riassumere, non è vero che il Comune di Firenze è sprofondo sotto i debiti. No, questo conti non è alla vero. Mano, bilancio questo non è vero. Dopodiché esistono, e anzi una situazione contabile tutto sommato è buona dal punto di vista della liquidità disponibile, esiste un problema di interessi pagati sui prestiti, sì, molto alti, che andrebbero rinegoziati. Andrebbero rinegoziati, ma hanno il vincolo del derivato. Hanno il vincolo dei derivati, di cui anche loro si sono avvantaggiati, per modo di dire, sì, o svantaggiati negli anni passati, devo dire prima di Renzi, sì, perché vero, questi contratti sono sempre stati fatti nel 2008, 2007, 2006. E poi hanno però diminuito gli investimenti e c'è un alto prelievo fiscale, molto alto rispetto alla media, mm-hmm, alti costi della struttura e la gestione Renzi, pur non avendo aumentato la spesa, sono circa 490 milioni, non ha nemmeno ridotto la pressione fiscale, cioè non è riuscita a fare dei tagli. No, tagli sensibili alla pressione fiscale non si sono visti, questo mantiene le buone entrate del comune, però evidentemente qui il merito va non solo a Renzi ma ai cittadini, ribadisco. Grazie, infatti i derivati li ha fatta la giunta Dominici, avete ragione, quello che abbiamo appena detto, scrive un ascoltatore, verissimo, ma in tutta Italia quei comuni che in maniera improvvida, e anche Milano ci si mette, non parliamo di Taranto, stipularono come apprendisti stregoni contratti derivati mai consigliati, per modo di dire, da banche in conflitto di interessi. Di solito questi contratti risalgono al 2006-2007, poi nel 2008 crollò tutto e ci si accorse che forse erano dei derivati un po' rischiosi. Grazie a Fabio Pavesi. E se una buona notizia l'abbiamo avuta oggi, mi riferisco alla assicurazione del ministro Grilli che i soldi per i malati di SLA ci sono, avevamo letto male noi, e si possono attingere dal fondo di 900 milioni previsto nella legge di stabilità. Adesso invece torniamo alla realtà con le prospettive che ha disegnato oggi l'Istat, non tanto sul 2012, che ormai insomma i giochi sono quasi fatti, ma quanto e soprattutto sul 2013. 349-238-6666 per i vostri sms. La disoccupazione sarà al 10,6% alla fine di quest'anno e all'11,5%, 11,4% per essere precisi, nel 2013. Questo nonostante il calo del PIL rallenterà, quest'anno faremo meno 2,3%, l'anno prossimo meno 0,5%. Evidentemente, adesso chiederemo spiegazioni, c'è un effetto trascinamento, cioè l'economia rallenta il suo calo e magari inizia a vedere anche un po' di ripresa, ma nel frattempo continua a aumentare i disoccupati. E anche i consumi, pur rallentando nella caduta, continueranno a cadere. Meno 3,2% quest'anno, ed è un dato pesante perché bisogna sommare l'inflazione, e meno 0,7% l'anno prossimo comunque. Il tutto, come dice l'Istat, mettendo le mani avanti, se non vi saranno fattori globali di rischi che ci obbligheranno a rivedere a ribasso le stime. Presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Avete messo già le mani avanti? Beh, credo che come tutti i previsori, come diceva quell'esperto, prevedere è molto difficile, soprattutto quando si deve prevedere il futuro. Il punto chiave è che ci sono segnali contrastanti. Da un lato la stabilizzazione dei mercati finanziari europei è certamente una buona notizia al di là delle tensioni degli ultimi giorni, dall'altro abbiamo un rallentamento nel ciclo di alcune economie particolarmente importanti come la Cina, il Brasile, e quindi il combinato disposto di questi elementi è ancora molto incerto. Resta poi l'incertezza sul risultato delle elezioni americane e sull'effetto che l'accordo previsto con il Tesoro, il Senato, la Camera dei Rappresentanti dovrà avere sul cosiddetto pacchetto fiscale. Se non ci sarà questo accordo, ci sarà un forte taglio dell'economia, evidentemente, perché la spesa pubblica verrà tagliata. E lì quindi arriverà una frenata americana e un peggioramento dei dati. Ma restiamo al 2013. Io ormai 2011, se lei è d'accordo, lo darei per acquisito, no? Insomma, può capitare ancora poco. Insomma, una recessione pesante, meno 2,3%. Ricordo che inizialmente il governo aveva detto faremo meno 1, meno 1,5, siamo oltre il doppio. Anche nel 2013 però chiudiamo in negativo. Voi siete riusciti a scorporare il dato e a vedere, insomma, quando si arriverà al giro di boa? Cioè il meno 0,5% può essere frutto di un meno 1, no? Da una parte e poi un segno più negli ultimi trimestri. Sì, noi dobbiamo ricordare che entriamo, come si suol dire in gergo tecnico, nel 2013 da un livello particolarmente basso. Sono ormai 6 trimestri di riduzione del PIL, a fine anno saranno 6 trimestri, e quindi il punto di partenza del 2013 sarà molto basso. Noi prevediamo che nel corso dell'anno, intorno ai trimestri centrali dell'anno, si possa tornare a una crescita congiunturale del PIL, ma insufficiente a far sì che l'anno complessivo abbia un segno positivo. Ricordo a questo proposito che anche nelle previsioni del governo formulate qualche settimana fa, in uno scenario simile si aveva comunque un dato dell'anno a meno 0,2 e che altri previsori al momento prevedono addirittura meno 0,7, quindi noi ci collochiamo a metà tra la previsione del governo di qualche settimana fa e il consenso dei previsori. La disoccupazione, nonostante l'economia, come voi dite, insomma, negli ultimi trimestri vedrà un po' di ripresa, il dato finale nel 2013 sarà pesantemente negativo, cioè quasi un punto in più di disoccupati, dal 10,6% all'11,4%. Il punto fondamentale che vale non soltanto per l'Italia ma anche per altri paesi, se vedete le previsioni del G20 di ieri, le dichiarazioni del G20 di ieri lo confermano, questa è una recessione lunga da cui non usciamo con un rimbalzo, come invece accadde alla fine del 2009. Cioè anche la ripresa sarà estremamente lenta. Nel momento in cui, soprattutto nell'industria, abbiamo una capacità produttiva inutilizzata molto ampia, in cui è cresciuto l'uso della cassa integrazione, in cui si sono ridotte le ore lavorate per dipendente, è chiaro che anche di fronte a una ripresa della produzione, prima di arrivare ad aumentare le teste, cioè il numero di occupati, ci vorrà del tempo. Questo spiega perché nel 2013 il tasso di disoccupazione è previsto in aumento e, ripeto, anche in questo caso, anche nelle previsioni governative c'era un dato molto simile, proprio perché se la ripresa continuerà, come tutti speriamo, nel 2014 e negli anni successivi, solo dopo qualche mese vedremo degli effetti positivi sull'occupazione. D'altra parte, la disoccupazione è aumentata, il tasso di disoccupazione è aumentato negli ultimi mesi anche perché molte più persone si sono presentate sul mercato del lavoro alla ricerca di un lavoro, proprio perché le famiglie sono in forte difficoltà. Sì. Ma e quindi lei dice, insomma, l'effetto trascinamento ci sarà anche nel 2013. Sul fronte export, voi confermate che sarà la domanda estera sia quest'anno, ciò che ne resta, che nel 2013 la principale fonte di sostegno alla crescita, con un contributo dello 2,8 e di 0,5 punti percentuali nei due anni. Che caleranno gli investimenti fissi della pubblica amministrazione, e questo appunto farà rallentare l'economia, ma soprattutto sui consumi. Sono rimasto sorpreso perché il calo dei consumi quest'anno è un meno 3,2%, pesantissimo, ma anche l'anno prossimo meno 0,7%. Questo di nuovo è un effetto in parte trascinamento dovuto al bassissimo livello con cui si entra nel 2013, sia il fatto che, come abbiamo detto prima, l'occupazione diminuirà leggermente nel corso dell'anno prossimo e non è previsto un aumento dei salari particolarmente forte. Quindi le fonti di reddito da lavoro dipendente avranno ancora una dinamica insoddisfacente. Di fronte a questa situazione ci aspettiamo un'ulteriore riduzione del tasso di risparmio, della propensione al risparmio, che però è già scesa a un livello bassissimo, circa l'8%, un livello storicamente minimo, quindi oltre un certo livello non pensiamo che possa scendere, per questo vuol dire che anche l'anno prossimo in media d'anno i consumi dovrebbero avere una contrazione, ancorché molto leggera. Ecco, mi dica una cosa, Giovannini, per concludere, lei insomma ha un ruolo istituzionale, però per cambiare leggermente l'andamento servirebbero, da quello che voi vedete, investimenti sulla domanda interna, riduzione del cuneo fiscale, qualche spesa pubblica, non lo so, perché è chiaro che così arriviamo nel 2014, io non voglio dare ragione a Angela Merkel, ma qua è tutto meno nei consumi anche nel 2013, meno nel PIL. C'è un'iniziativa per la cosiddetta crescita, lei la vede come utile oppure dice no, tanto le variabili esterne sono più forti? No, io intanto spero che il rallentamento della domanda mondiale non sia così forte come alcuni prevedono, ma che anzi i piccoli segnali che si stanno avendo in Cina rideterminino nuovamente una crescita del commercio con l'estero forte. La domanda interna in queste condizioni è bloccata da un lato dalla indisponibilità di reddito delle famiglie, dall'altro il fatto che gli investimenti reagiranno con lentezza perché c'è una capacità produttiva inutilizzata, soprattutto nell'industria, molto forte. Quindi non c'è nessuna spinta in questo momento ad avere un ciclo di investimento robusto. Chiaro. Qui è l'Europa, a mio parere, che deve giocare complessivamente un ruolo importante. Anche il G20 ieri ha sottolineato le preoccupazioni che l'Europa proceda nei prossimi anni a una crescita talmente contenuta che non avrà effetti reali sull'occupazione. Perché poi le famiglie ricominciano a spendere soltanto se arrivano nuovi redditi, nuova occupazione. Cioè, in questa situazione, con i vincoli di bilancio che abbiamo, un'operazione robusta di rilancio della domanda, degli investimenti e così via, credo possa passare soltanto dall'Europa. Altrimenti sarà jobless recovery, la ripresa senza un po' di ripresa ma senza nuova occupazione. Grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Da Sebastiano Barigioni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.